certe canzoni sanno parlar di te, ma non rispondono ai perché. E hai già deciso di non voltarti mai, come se già sapessi dove vai. Guardati attorno, non è difficile, lasci uno spazio anche per me. Quello che dico non ti cambierà, però permettimi di dire quello che so. Certe canzoni si vivono una volta sola, ma tutte quante muoiono. Hai già deciso che va bene così, lo dice la tristezza dei bigini. Guardati attorno, non è difficile, e lasci uno spazio anche per me. Quello che dico non ti cambierà, però permettimi di dire quello che so. E sono così, e la mia vita è tutta qui. Se non ti basta, vai pure in America e viaggia quanto vuoi. Salutami i tuoi eroi, un bacio a Wonder Woman, auguri a Superman. Cosa che so, scrivo canzoni, distratto sai com'è, com'è un problema in più che mi tira su. E lascia stare a capire come si fa, a Willy il coyote non lo sa. Guarda che torno, non è difficile, lascio uno spazio anche per me. Quello che dico non ti cambierà, però permettimi di dire quello che so. E sono così, e la mia vita è tutta qui. Se non ti basta, vai pure in America e viaggia quanto vuoi. Salutami i tuoi eroi, un bacio a Wonder Woman, auguri a Superman, ma non scordarti. Cosa che so.